E buonasera a tutti, benvenuti ancora qua sulle onde di Radio Alma. Siamo sul programma I colori dell'anima, che appunto ancora qua. Il lunedì saremo con voi in vostra compagnia dalle 21 alle 22. E qui con me in studio ci sono in regia Cristina. Buonasera a tutti, buon Ciao Cristina. inizio di settimana a tutti. E buon inizio del mese di ottobre. Sì. E Gerald, che dopo conosceremo meglio. Ciao Gerald. Buonasera Monica. Ciao Gerald. Ciao Cristina. E allora, la trasmissione di oggi riprenderà un po' il filo di delle trasmissioni precedenti che abbiamo fatto durante questa primavera e quest'inverno sul volontariato. Abbiamo infatti parlato, quest'anno è l'anno europeo del volontariato, e abbiamo avuto in studio qua nei mesi scorsi persone che hanno lavorato, che hanno fatto appunto del benevolato, del volontariato a Convivial, quindi con i rifugiati. Persone che invece lavorano per Medici Senza Frontiere, e abbiamo intervistato appunto delle persone. Abbiamo parlato della Croce Rossa Italiana, Internazionale e quella belga, di Caritas. Oggi parleremo invece di un volontariato un po' più quotidiano, possiamo dire, un volontariato che alla fine un po' tutti possiamo mettere nella nostra vita come delle gocce di gratuità, vero Gerald? Sì, piuttosto così. Ecco, e allora, niente, sentiamo un po' se c'è innanzitutto una canzone da lanciare, che forse è un po' fare volontariato è un po' come fare un regalo, no? E vediamo dopo cosa ci farà sentire Tiziano Ferro. Ma continuando appunto. Non abbiamo scelto il colore di quest'oggi, perché i colori dell'anima, Gerald, sono i colori di ogni trasmissione che facciamo, ci deve essere un colore particolare. E allora, esatto, e per questa serata io proporrei come colore un bianco che sembra può essere un colore magari neutro, così, però puoi dire tante cose, il colore della luce, un colore luminoso. Colore del matrimonio. Un colore del Del matrimonio, matrimonio, perché un matrimonio è un'opera di volontariato. volontariato. È un benevolato, un matrimonio nella vita quotidiana, ma non È un sono modo di vedere sposato, le ma. cose. Ecco, e poi, insomma, è anche un bianco della purezza, anche della volontà di fare un'azione così Bello. volontaria, benevola. Ecco, quindi un bianco luminoso. E con questo bianco potremo lanciare la canzone. E Possiamo vediamo, provare a possiamo lanciare la provare a lanciare la canzone. canzone? Una canzone di Tiziano Ferro. Voglio Esatto. farti un regalo. Ed eccoci ancora qua in studio sui colori dell'anima, Radio Alma, ed era Tiziano Ferro con Il regalo mio più grande. Il regalo mio più grande proprio perché fare volontariato è un regalo, nelle piccole azioni e nelle grandi. Ma allora, se ci volete chiamare, il numero di telefono è lo 02 345 26 56, oppure il sito Cristina. Radioalma.eu. Perfetto, e allora eccoci qua ancora in studio con Gerald. Allora, Gerald, oggi parliamo un po' di, diciamo, quelle gocce di speranza, gocce di volontariato. Tu mi sembra che ne hai fatte parecchie. Nella quotidianità, comunque ci raccontavi prima, ecco, quali sono state le esperienze un po' più importanti che hai avuto? Io direi che nel volontariato, qualche anno fa ho molto visitato persone anziane, anche ci sono delle, come si dice, delle pensioni per persone anziane che Sì. sono pochissimo visitate. Soltanto andare lì, quando ero studente, a Lovanio Vecchio, mi ricordo, andavo regolarmente nella stessa casa di anziani, non so come si dice. E provevo di visitare le stesse per creare una relazione. Cercavi di creare un legame con queste Sì, persone che abitavano la casa di riposo. e non sempre nella stessa casa di riposo, ma comunque ovunque andavo, se si dice così in italiano, Sì. provevo di guardare un contatto nella durabilità. E un'altra esperienza è entrare in un progetto che distribuisce cibo. E qua a Bruxelles ce ne sono tanto. Sì. E soprattutto voglio fare è un po' senza legame, ma voglio ringraziare Monica che ha guardato la tematica, perché gli ho chiesto un fazzoletto e mi ha dato carta igienica bianca, per fortuna. Il colore della trasmissione. Il colore di oggi. Sì. Non potevo dartela altrimenti diversa. Vogliamo parlare un po' di te, come mai sei venuto a trovarci stasera? Allora, puoi parlarci un po' delle tue origini, un po' della tua storia, come mai parli italiano con questo accento un po' particolare? Ma come sono venuto qua? Perché un'amica mia, Cristina, che mi ha parlato adesso, mi ha invitato. È così che sono venuto qua con la macchina. Allora, tu sei belga? Sì, sono belga e ho imparato una bellissima lingua. Enfin, la parlo male, con errori sicuramente, ma ho imparato l'italiano a Bologna 14 anni fa, nel 97-98. Ho fatto un Erasmus. Ah, Erasmus! Fatene uno a Bologna! Era una bellissima esperienza. Quando sono arrivato lì non parlavo mica italiano, sai, pizza, grazie, prego, ciao bella, e meno, non così tanto, ma comunque parlando si impara. Ok, e quindi così hai imparato l'italiano e sei partito con lo spirito del volontario a Bologna? Sono partito per studiare a Bologna, ho fatto comunque ho aiutato un po' un gruppo che non so il suo nome, che assomiglia a ciò che chiamiamo qua l'Arche de Jean Vanier. Ah sì, la comunità arcobaleno. Non lo so, si chiama qualcosa così. Deve essere così. Che si occupa di principalmente di o la bar, sì. Persone che hanno la trisomia 21. Sì. Ma ho aiutato un po' questo gruppo, ma non credo di aver fatto molto più volontariato a Bologna. Volontario in modo diverso. In modo diverso, comunque, sì. No, allora ti facevo questa domanda perché penso che possiamo parlare del volontariato come di uno spirito, come una maniera di vivere, una maniera capisco. Di essere. Sì. Capisco, ma io quando parlavamo insieme con Cristina abbiamo pensato, ma io vivo in una casa, siamo otto giovani, ma il volontariato è la domanda. Ho incontrato qualcuno, sono stato un buon samaritano o no con lui? Ho incontrato il mio vicino di casa che mi fa, non so come si dice, innervosire, almeno, ho avuto una parola buona con lui, ho fatto ciò che devo fare, ho fatto la cucina per i miei fratelli di casa, non lo so, ho fatto le pulizie, sono anche delle domande importanti, credo, e vedo anche il volontariato nel quotidiano, nell'incontro dell'altro. Ho visto qualcuno, l'ho lasciato perché non avevo il tempo, l'ho lasciato perché non mi piaceva, ho visto qualcuno, un rifugiato, ma il rifugiato può essere qualcuno che, certo, vado a parlare un italiano schifoso, mi ha detto Cristina, si dice qualcosa mi succede, ma qualcuno mi succede, ho incontrato qualcuno, cosa ne faccio di questo non, qualcuno? Di questo qualcuno, non di questa cosa che mi è successa, ma di questo qualcuno che mi è successo. Così. Quindi hai uno spirito, diciamo che il volontario è un po' una persona che ha uno spirito aperto, ha gli occhi aperti, sì. Che fa le cose senza chiedere nulla in cambio e che vive un po' con questo stile di vita. Io, sì. Un servizio, sì, un spirito di servizio. Noi abbiamo parlato. Sì. Volevi dire qualcos'altro? No, ti ascolto. Abbiamo parlato quindi di questo spirito di servizio, di questa mentalità, maniera di vedere le cose, quindi essere volontari in modo un po' spontaneo. Però esistono anche numerosissime associazioni, certo, nel mondo che sono associazioni di volontariato e sono associazioni con vari che hanno varie ragioni d'essere. E per esempio sul territorio belga c'è un'associazione che stasera vogliamo citare, vogliamo farvi conoscere, che si chiama Volontariat.be, e il sito è Volontariat.be. È un ASBL, è una ASBL, sì, è un'associazione senza scopo di lucro. È molto interessante perché questa Volontariat.be funziona un po' come contenitore di tutte le informazioni delle associazioni di volontariato esistenti qua a Bruxelles. Esatto. E a Bruxelles è un po' nel territorio belga, del capitale. Mm-hmm. Ed è allora sul sito è molto interessante, si possono trovare delle tra virgolette delle offerte di volontariato, tutte le associazioni che hanno bisogno di volontari per dei progetti possono mettere la loro offerta, e c'è anche un servizio di supporto esatto. dove ognuno può andare, può avere un colloquio con dei giovani volontari anch'essi per avere delle informazioni, per conoscere meglio le associazioni e magari conoscere quali sono i progetti che gli interessano di più. Esatto, infatti questa SBL è nata nel 1974 e è riconosciuta oggi nel mondo associativo e al Consiglio Superiore dei Volontari come associazione che gestisce, diciamo, il volontariato a Bruxelles e in Vallonia. Sì. E infatti l'associazione, come dicevi, diciamo, integra, ecco, assembla circa mille associazioni a Bruxelles e in Vallonia. Sì, e ci sono dei punti di informazione a Bruxelles, Waterloo, Braine-l'Alleud, Namur e Ottigny-Louvain-la-Neuve. Esatto. In ogni centro ci sono dei giovani volontari che assicurano una permanenza una volta o due volte a settimana e sono lì pronti per ascoltare, com'è una sorta di agenzia interim per i volontari. Esatto, buona idea questa, buona idea questa. Okay. E allora, insomma, dopo questa breve carrellata così, direi di iniziare quasi, di continuare con una seconda canzone. Andiamo con la musica, ascoltiamo i Gemelli Diversi, Vivi per Miracolo. E ce l'hai un attimo per me qua ai Gemelli Diversi su Radio Alma 101.9. Siete collegati sui colori, cioè la trasmissione I Colori dell'Anima. Staremo in compagnia con voi fino alle 22, ogni lunedì appunto dalle 21 alle 22. Se ci volete, se volete intervenire, appunto, darci qualche testimonianza, volete raccontarci qualche esperienza, come sta facendo Gerald. Esatto, il numero è lo 02 345 26 56. Sì. Se volete invece visitare il sito, Cristina, il sito è radioalma.eu. Esatto. E ricordiamo che sul sito potete trovare le trasmissioni precedenti, ma potete trovare anche altre informazioni. Esatto, anche altre trasmissioni sulla radio. Esatto, sì. Le altre radio. E quindi volevo chiedere, allora, appunto, la canzone Vivi per Miracolo, quindi appunto questo miracolo, Vivi per Miracolo, non so, forse si collega un po' con la tua esperienza con le suore di Madre Teresa. Io direi che il vero miracolo sarebbe Madre Teresa stessa, e io non ci entro che per pochissimo, ma comunque mi piaceva un po' ciò che è stato detto, che lo spirito di benevolenza che deve essere vissuto nel quotidiano, perché mi ricordo che Madre Teresa dice lei stessa, è bene di andare all'estero, ma che questo volontariato per gli altri lo puoi fare da te con i tuoi vicini di casa e chi incontri. E quindi è il matrimonio, come dicevi prima? Beh, sì, è il matrimonio, è vero che il matrimonio è questo altro che devo aiutare, che devo accogliere, può essere quello con chi sono sposato o sposata, che può essere, come si dice, dice una parola accettabile per me, vi prego, come noioso, ogni tanto con chi vivi può essere pesante. Noioso, e dunque la carità, l'amore, non so come si dice, il volontariato può essere lì. E l'esperienza con Madre Teresa è qua, Avenue du Roi, siamo nell'Avenue du Roi. Sì, vicino. Avenue du Roi 69, ogni giorno accogliono chi ha fame, ogni giorno, ma non il giovedì, all'inizio del pomeriggio, È così, puoi anche andare a aiutare, a servire i poveri, sono persone di tutte le religioni, credo Le molti, razze. sì, molti musulmani, molti europei dell'est, anche belgi che sono poveri e sono serviti. Dunque è un amore che non deve essere sentimentale, voglio dire, Pratico. amare non è soltanto essere innamorato. È un Certo. aiutare l'altro, eh? Quando sei innamorato, è facile amare l'altro, Certo. ma come nel matrimonio, dopo qualche anno, forse l'innamorarsi c'è di meno, Certo. ma c'è qualcosa da fare per ancora amare l'altro. E credo che in ogni incontro di un'altra persona, la domanda è come l'ho incontrata, come l'ho accogliata? E sono L'accoglie. sicuro che non l'ho fatto bene. Ancora Ma una vuoi? piccola cosa, attualmente incontro un ragazzo sulla sedia a rotelle, Rotelle. oh la rotolita, fa rotelle, e fa piacere soltanto nel tempo ogni tanto, Non spesso. non oh là là, non ciascun Non ogni giorno. ogni giorno. Vado Abbastanza ogni spesso. 1 o 2 volte, A settimana. no, una volta ogni 2 settimane, sono Ok. sicuro. E mangiare con loro, soltanto sei lì e mangi con qualcuno che, no, che è quasi paralizzato. Mangi con lui, parli con lui, Sì. o andare al cinema con qualcuno in sedia a rotelle. E Sì. che non è facile neanche, perché non può andare dove vuole. Certo, poi con tutte le difficoltà anche di salire dal bus, scendere dal bus, Sì. con i Barriere mezzi, architettoniche. ci metti, esatto, ci metti tanto, Non sì. credo che sia possibile col bus. Infatti, Ma no, ma io ho i bus trovato, sono sì. cioè sono fatti Ah apposta sì? per Sono questo. attrezzati, infatti io ho Ah, visto proprio che no. scende proprio una scaletta, diciamo, insomma, non proprio una scaletta, ovviamente Una una pedana discesina, una dove si può pedana. mettere la sedia, sì. E Esatto. poi risale nel bus. Però è vero che È veramente, raramente si è vede. raro, Sì, sì. è un Ma po' anche. complicato anche per come è fatta la città di Bruxelles. Sì, a Certo. Bruxelles, ma dove sono? A Louvain-la-Neuve è molto più facile Sì, per sedere assolutamente. a rotelle. Esatto, infatti a Louvain-la-Neuve ci sono parecchi persone disabili, pure in Sì, sedia a perché rotelle, sì. è pratico per loro. Esatto. E mi ricordo che visitavo anni fa un vecchio Vecchio. signore che camminava con qualcosa. Col tipo delle stampelle, delle rotelle, Sì, di fronte a lui, con un, sì, un ma passeggino. con questo poteva camminare, ma per andare nella città doveva essere pussato, si dice così? Spinto. Spinto in una sedia a rotelle, e Sì. lui era a proape cieco, Cieco, ah sì. ma voleva andare in un giardino per sentire, più o meno vedere. Soltanto sono andato in un giardino dove sono fiori e ho sentito, fa sentire con Certo. la, Ha fa, sentito l'odore, sent certo. se non sentire con le orecchie, ma soltanto quello può fare piacere. E io direi che ci sono tante organizzazioni che hanno bisogno di un mano vostro. Gerald, vorrei farti una domanda. Quando sei andato dalle suore di Madre Teresa, c'è un'esperienza che ci vuoi raccontare? Un episodio che ti ha, qualcuno che hai incontrato, che ti è rimasto un po' nel Impresso. cuore? Ho incontrato. Io direi che ho parlato un po' con le gente, qualcuno me. Ho incontrato altre persone che aiutano. Per esempio, c'era lì una ragazza americana che era in Belgio e che non aveva niente che non sapeva veramente cosa fare, perché voleva fare un progetto di volontariato specifico che non ha potuto fare, e dunque. Perché aveva tempo in Belgio, andava ogni giorno aiutare le suore di Madre Teresa ogni giorno, quasi ogni giorno. Mm-hmm. E è un'esperienza interessante perché abbiamo un po' continuato una relazione su altre cose. E anche qualcosa che mi rimane è di vedere persone che hanno bisogno di scarpe. Ma soltanto così, sono lì e vogliono delle scarpe, le suore danno delle scarpe. E anche persone che aiutano e che fanno, ma che anche hanno bisogno, sì. Capisci? Mangiano con gli altri e poi sono un po' colpiti che le suore aiutano, dunque anche aiutano loro, anche sì. Loro le suore e sono lì e lasciano. E ciò che è interessante è l'apertura di spirito, perché le suore di Madre Teresa fanno la preghiera per tutti all'inizio del pranzo e la gente che credo nell'immensa maggiorità non è cattolica ascolta, c'è un rispetto di tutte le confessioni. Mm-hmm. È un po' generale, sì. di momento insieme, di un pranzo insieme, senza divisioni, senza cultura, razza e differenza. E c'è qualcuno con cui hai parlato un po' di più, che ti ha raccontato la sua storia, da dove viene, come mai è qui? Non dalle suore di Madre Teresa, ma ho parlato un po' di più, ma qualche anni fa ho un po' aiutato a Sant'Egidio. Mm-hmm. Che ho sentito che hanno cambiato di posto, ma erano vicino alla chiesa di Rechecler, non so, no, Rue Neuve, qualche anno fa erano. Finistère. Erano al Finistère, ma adesso non so dove sono. So che e lì c'è qualcuno che ti dice un po' la sua vita, ma io non mi ricordo così, dunque non posso dirti esattamente, ma mi ricordo che ho parlato con e sì, e anche ci sono altre persone con chi ho più parlato. È un servizio ogni sera alla Gare Centrale, c'è chi distribuisce d'inverno cibo, mm-hmm. la cena, ma non è sempre lo stesso gruppo. Conosco un gruppo che ci va una volta al mese e lì c'è un signore che vive quasi più o meno poveramente e che tutta la sua vita aiuta gli altri poveri e quasi vive con loro. Non so più il suo nome, ma lui mi ha colpito il fatto che voleva, perché vedi che lui l'ha voluto vivere lì con i poveri e aiutava anche ciò che accade. Perfetto. Allora certo, sicuramente è qualcuno che ha fatto un po' splendere il sole sugli occhi di altri. E un po' come la canzone di adesso, è splendere di giorno il sole, Max Gazzè. Ecco ancora qua in studio su Radio Alma, I colori dell'anima. Siamo in studio con Cristina in regia e Gerald, che ci sta raccontando un po' delle sue esperienze di volontariato più quotidiano. Ecco, non è necessario fare grandi andare dall'altra parte del mondo, ma anche nel proprio quotidiano. E se ci volete raccontare le vostre esperienze o qualcosa che vi ha colpito, il numero di telefono è lo 02 345 26 56. Invece se volete visitare il nostro sito è www.radioalma.eu. E allora volevo parlarvi questa volta un po' di progetti che vengono fatti anche all'estero insomma, con un'associazione che si chiama Project Abroad. Il sito potete andare su www.project-abroad.it e qua potete trovare veramente missioni di volontariato internazionale e stage in Africa, America Latina, Asia e Est Europa, ed è proprio un'occasione unica e personale per la crescita personale e anche professionale. E ci sono davvero tantissimi modi di fare volontariato. Innanzitutto è un'associazione che è nata nel 92 con la quale sono partiti più di 35.000 volontari. Appunto si può partire facendo delle esperienze davvero differenti, ecco, da archeologo a insegnante a insomma, volontariato per l'ambiente, per lo sport, missioni umanitarie oppure mediche, diciamo, da 2 settimane fino a insomma, più mesi o ecco, più anni così, dal giornalismo oppure con le costruzioni, e in quasi, veramente quasi tutti i paesi del mondo, comunque in tutti i continenti. E quindi niente, se, anche appunto in veterinaria, economia, sto leggendo davvero appunto tantissimi. Tra l'altro promuovono anche il Gap Year, che è più conosciuto nei paesi del nord Europa, in Inghilterra, anche qua in Belgio tantissimi ne conosco, magari anche tu l'hai fatto, Gerald, il Gap Year, che è un periodo di pausa, una temporanea interruzione della scuola. In francese si chiama parenthèse utile. Voilà, parentesi utile, nel mondo Però non si accademico o dice niente. professionale, e a differenza appunto di quanto suggerisca il termine, questa pausa non deve durare necessariamente un anno, ecco, ed è serve per trovare il modo e il tempo per partire, dedicarsi a nuove esperienze di vita, visitando continenti, conoscendo culture e aiutando persone. E l'idea appunto è proprio quella di prendersi questa pausa. E in Italia il gap year stenta un po' a decollare, anche se negli ultimi anni aumenta il numero di persone che si concede una pausa. Con l'introduzione in Italia infatti di importanti normative che riguardano l'anno sabbatico e il career break, e con la complicità della flessibilità del lavoro, flessibilità, mettiamola tra Quella sì, questa virgolette, flessibilità molto flessibile. libero Sì, praticamente. tanti giorni di vacanza. Esatto, il fenomeno sta investendo anche la nostra popolazione, Sì. e quindi questa esperienza davvero ecco, ne vale la pena. Ed è davvero per tutti, nel senso per un'occasione per studenti, lavoratori precari, ma anche grandi manager o casalinghe, proprio per mettersi in gioco dal punto di vista personale e anche il curriculum lavorativo. E tra l'altro queste persone appunto che rientrano dopo queste esperienze hanno, c'è proprio una prova, ecco, che dopo quest'anno c'è una maggior rendita anche a livello universitario, comunque una maggior coscienza di sé del proprio lavoro e appunto motivazione nel lavoro. Ed è un'esperienza, direi, sicuramente da promuovere. Io ho conosciuto molte persone qua in Belgio che hanno deciso di fare questo anno sabbatico, tra cui appunto conosco questo ragazzo italiano che è qua con la sua famiglia, ormai non è nato qua ma vive qua da quando è piccolo, e ha deciso dopo le superiori di partire per la Bolivia. E quindi sta facendo questa esperienza, è ritornato ed è di nuovo ripartito proprio per continuare. Si è Esatto, legato all'esperienza. si è legato all'esperienza là perché gli ha dato responsabilità, ha acquisito delle certe insomma, capacità, quindi Un po' come noi. ecco, un po' come noi, esatto, noi abbiamo abbandonato l'Italia, Abbiamo fatto un po' il contrario, però. esatto, siamo venuti in missione in Belgio, va Siamo venuti in missione, bene. sì. Monica, vorrei chiederti, e tu, qual è la tua esperienza di volontariato? Allora, la mia esperienza di volontariato. Allora, io faccio volontariato in radio. Sì. Che la comunicazione è una cosa importante, direi, perché soprattutto c'è una mancanza di una qualità dell'informazione. E non so, soprattutto anche in Italia, adesso in Italia mi hanno tolto questo programma fantastico che era Passepartout. Condotto da Philippe Daverio, ed era un programma di cultura proprio, ma non era stato storia dell'arte, Ah sì, ma quello era della domenica. esatto, era proprio Sì. di cultura, sapeva legare diversi proprio, insomma, la storia, la cultura, l'arte, e l'hanno tolto su Rai 3, hanno tolto Oh, l'unico peccato, programma di l'unico programma cultura che culturale. c'era. Esatto, quindi davvero l'importanza di una cultura per per essere coscienti di dove si vive e di chi si è anche, della propria storia, del proprio passato. Soprattutto mi ricordo molti contatti con gli altri stati Sì, europei, con la sì, sì, Francia, sì. con la Spagna, Sì. quindi era Non era una solo possibilità di uscire italiano. un po' dai limiti, dai confini dell'Italia. Esatto, non era solo italiano, proprio faceva viaggiare e in veramente pochissimo tempo raccontava, insomma, ci faceva viaggiare Dei pezzi di veramente. storia. Nel passato, nel presente e nel futuro Sì, proprio. assolutamente. E volevi Anche a me dire piaceva molto. se. Ma non ho bene capito. Dunque, tu hai lavorato in Italia su un'altra radio? No, no, Ah, non ho no, no, capito. adesso No, non ho capito. qua in Belgio, perché ritengo appunto che dare un po' di cultura, di comunicazione, se ci avete seguito durante l'anno, avete sicuramente seguito i nostri programmi sui 150 anni d'Italia, appunto sul volontariato, quindi sempre dare dei messaggi, ecco, positivi. Ah, Penso ok. che questo sia importante. Poi Sì. sì, ho fatto anch'io un po' di volontariato, Sei sposata? Non sono sposata, no, non ancora, anche se ho due uomini in casa, Ah, quindi dunque fai un assolutamente volontariato vero. grande. C'è un grande Una grande volontariato, no, volontaria. sono bravi. No, però ho fatto anche io un po' volontariato con l'Arche, qua a Bruxelles, sì. In Italia anch'io ho servito per delle mense con i francescani, quest'inverno scorso, sì. Ho fatto anch'io appunto con gli anziani, ho fatto un periodo, però è proprio, ho fatto tantissimi anni animando bambini. Così, Ah, quindi ok, bene, se anche io non sono scout, ma mia sorella e mio fratello sono scout, e qua in Belgio mi sembra di vedere un'altissima percentuale percentuale della di Oh, popolazione sì. Più che di fa scout. cinquanta per cento. Sì, anche di più direi veramente. A Molto. Louvain la Neuve c'è Sì, l'invasione degli scout proprio. è così, Sì, sì. ci vivo, ci abito, Sì, così dice. sì, sì. Io non so, volevo forse dire che l'altro che posso aiutare, ho avuto un'esperienza che un altro che ho incontrato nella strada, ma vado a spiegare dopo, che era lì, che viveva fuori e che ho incontrato a caso, era veramente mio fratello. Ho avuto questa esperienza e dunque mi ha fatto pensare che tutti gli altri, anche perché non li vedo come i miei fratelli, a volte penso, oh, lui non credo che sia buono di aiutarlo, cosa va a fare? C'è un giudizio interiore che si fa e fai una selezione a volte, ma è peccato, di chi aiuti, capisci? Esatto. E dunque quello, ma può essere il tuo fratello, non sai perché, come ci è. E magari ha bisogno di un sorriso, ma l'esperienza che mio fratello è veramente così. Certo, perché tu ci raccontavi anche che, appunto, penso che sia anche questa un'azione molto buona, ma allo stesso tempo faticosa, perché comunque come ogni azione poi ha le sue conseguenze, che la tua famiglia ha preso in affido qualcuno, Sì, quindi è anche. quello. E lui, fanno la legge belga, poteva tornare nella sua famiglia di origine quando aveva Sì. l'età, 18 anni, e come anche un'età di crisi di adolescenza, e come vedeva la sua madre, cioè, anche ci sono tanti problemi. È un giudice che prende fuori di una donna che è in difficoltà un bambino, ma conserva un Maltrattato, legame sì, con lei certo. ogni mese. E dunque ha voluto tornare nella sua famiglia di origine e dopo ha avuto un po' di difficoltà e si è ritrovato dopo qualche anno nella strada e lì, vicino alla Gare Centrale, che l'ho ritrovato e abbiamo ripreso contatti. Adesso va benissimo, ha un lavoro, la ragazza che va quasi Si sparti, sta partorendo, quasi. quasi, ecco. Ah, quindi lui è un volontario a vita perché sì, è un volontariato, è un bello ha preso un buon volontariato, esempio è avendo un un figlio bello volontario a vita. E volontariato. allora Va bene, Cristina, Allora, adesso ascoltiamo un'altra canzone, Laura Pausini, Benvenuto. Ed ecco ancora benvenuti su Radio Alma, I colori dell'anima. Siete collegati ancora, saremo con voi ancora per pochi minuti. Poi ci daremo l'appuntamento per lunedì prossimo. Dunque, se volete avere però ancora maggiori informazioni, il sito è www.radioalma.eu. E volevo, prima di dare la parola a Cristina, volevo solamente ricordare che per chi è qua a Bruxelles, può rientrare a Milano oppure è proprio interessato e vuole diventare volontario internazionale, può partecipare agli incontri informativi di Project Abroad, cioè di Project Abroad, perché è in inglese, a Milano il sabato 12 novembre dalle ore 15 alle 18, oppure a Roma il sabato 26 novembre dalle ore 15 alle 18, ma tutte le informazioni potete trovarle sul sito www.project-abroad.it. E Cristina, cosa ancora ci vuoi dire? Allora, voglio darvi ancora qualche informazione sul volontariato internazionale per tutti gli italiani, ma anche tutti i cittadini europei che vogliono partire, certo, per fare un progetto. Ci sono dei fondi messi a disposizione nel programma comunitario Youth in Action. Per i giovani dai 18 ai 30 anni c'è il programma di servizio civile internazionale che molti sicuramente conoscono. Certo. È molto interessante partire con questi progetti perché è un'occasione per conoscere delle organizzazioni, delle associazioni senza scopo di lucro, per fare delle attività che permettono di crescere, di migliorarsi, di conoscere nuove culture all'interno dell'Europa. E quindi questi viaggi sono promossi in tutta Europa e c'è un rimborso spesa al 90% per il viaggio e anche un pocket money mensile che viene dato ai volontari per questi progetti dai 6 mesi a un anno in tutti i paesi europei. Mentre per i più coraggiosi che vogliono partire lontano, lontanissimo, molto lontano, vogliono andare nei paesi del sud del mondo, ci sono altri progetti di servizio civile internazionale che sono disponibili sia in Italia che in tutti i paesi europei, ma per andare in Africa, Asia, America Latina e Mediterraneo. Per partire con questi progetti di servizio civile internazionale è necessario avere almeno 20 anni e essere soci del servizio civile internazionale e, al contrario degli altri progetti europei, per partire nei paesi del sud del mondo bisogna iscriversi e pagare una quota di iscrizione che va dai 150 ai 250 euro, mm-hmm, e anche pagare le spese per il viaggio e l'organizzazione. Questo perché i progetti sono svolti in paesi poveri e le organizzazioni che accolgono i volontari non sono in grado di sostenere economicamente questi progetti. Quindi tutte queste informazioni potete trovarle sul sito sci-italia.it o Servizio Civile Internazionale, troverete altre informazioni in più. Ed è fino ai 30 anni, giusto? Questo sì, è un programma fino ai 30 anni, bisogna avere almeno 20 anni. Almeno 20 anni, almeno 20, certo, anni. Certo. Sì. Poi ci sono altre organizzazioni, vorrei citarne una che si chiama Punto Cuore o sì. Point Cœur qui in Belgio. È un'associazione cristiana che ha dei punti in tutto il mondo, in Africa e in America Latina, e permette di fare dei progetti dai 14 mesi ai 2 anni per i giovani da 18 ai 35 anni, anche per delle coppie in un punto cuore in Brasile o in India per il matrimonio e per studenti lavoratori eccetera. Quindi anche in questo caso, se volete partire con uno di questi progetti, ci sono dei corsi di formazione, di preparazione che, certo, durano 2-3 settimane perché permettono di conoscere la cultura, il posto dove si va e di ambientarsi, e potete avere più informazioni su www.cuore.org. Ecco qua. Se volete ancora altre informazioni, possiamo recitare i siti di informazione, quindi volontariat.be per le associazioni di volontariato in Belgio, sc-italia.it per il servizio civile internazionale, oppure www.project-abroad.it. E Gerald, tu? Io direi che a casa vostra, con il vostro potete già fare volontariato, aiutare gli altri o anche con quelli che vivono con, che abitano con voi. Esatto. Già lì potete quindi iniziare il vostro volontariato. È casa propria. Casa propria. Sì, qui si casa proprio via. Esatto. Punto via. Perfetto. E allora, perfetto. E allora niente, ringraziamo allora l'ospite in studio questa sera di noi, Gerald, grazie. Grazie Monica. E allora grazie a Cristina anche per la regia, per l'animazione. Esatto, ci vediamo. Grazie Monica per la tua presenza. Prego. Per il tuo sorriso che gli auditori non vedono, anche Cristina ecco. Non vedono. Siamo due donne col sorriso. Sì. E allora ci vediamo appunto, ci sentiamo la settimana prossima dalle 21 alle 22, sempre I Colori dell'Anima su Radio Alma. Buona serata. Buona serata a tutti. Buona serata. Ciao.